Ma a me pare che i mercati avevano scommesso su Berlusconi andare al Quirinale, poi quando è giunta, diciamo, questa smentita da parte di Berlusconi medesimo, hanno un po', diciamo così, raffreddato il loro entusiasmo. Naturalmente bisogna intendersi, l'entusiasmo non è perché i mercati sono anti-berlusconiani, l'entusiasmo è perché i mercati si aspettano, diciamo così, un cambiamento di passo, un po' come diceva Massera prima. Io credo che sia giusta, diciamo, la seconda chiave interpretativa che ha dato Folli, cioè io credo che in ogni caso Berlusconi abbia deciso di non favorire alcuna soluzione intermedia, cioè abbia deciso di bruciarsi i ponti alle spalle e quindi in caso di caduta del governo di puntare dritto alle elezioni anticipate il più presto possibile. Ed è per questo che non si dimette, perché le dimissioni, diciamo così, aprirebbero una fase politica nuova in cui Berlusconi e il PDL continuerebbero un po' a dare le carte, ma dovrebbero dare le carte, cioè dovrebbero giocare al tavolo di nuovo governo. Mentre invece questa soluzione, che è un po' la stessa che usò Prodi quando cadde 3 anni fa, 3 anni e mezzo fa, è quella di andare fino in fondo, farsi battere dalle Camere in modo da rendere chiaro che non c'è una maggioranza possibile e dunque bisogna andare allo scioglimento.